bailaba corpo belli tu amore. Amore, amore, amore. Ed mi culo sogra tu bailaba corpo delga tu amore. Amore, amore, amore. Bailaba corpo delga tu che nuvola.